24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. E noi vogliamo, elettori, il bagno alla turca. Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Ovvio che abbiamo chiesto scusa e Greta ha usato le parole perfette, ci dispiace per quello, per il dolore che abbiamo causato, ma non siamo responsabili del nostro rapimento, siamo stati 5 mesi e mezzo chiusi dentro. Prendi, spandi, spendi. Considero inaccettabile che in questo caso qualcuno si sia spinto a dire se la sono cercata, magari perché si tratta di due giovani donne cooperanti. Della grana, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Provo a portarla a casa in altra maniera. Provo a portarla a casa in altra maniera, non pago. E però non voglio neanche essere preso in giro dal governo che mi dice sì, no, forse, l'abbiamo capito tutti che hanno pagato un riscatto, che abbiamo come italiani pagato un riscatto. Ce lo dicessero faremo miglior figura. Come un pascià e a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Su queste polemiche ritengo che la solidarietà sia uno dei valori fondanti, uno dei valori assolutamente presenti anche nella nostra Costituzione. E a piedi caldi se ne sta. Quest'ultima dichiarazione il presidente della Camera Laura Boldrini l'ha fatta a fianco al suo gatto Gigi Billo. Ieri si è presentata la festa degli animali con Gigi Billo. Niente, ancora qui a discutere dei soldi, del riscatto per Vanessa e Greta, le due che sono andate in Siria e finalmente sono state liberate, siamo riusciti a portarle a casa, questa è la cosa più importante, la cosa che conta. Certo, c'è anche tutta la polemica legata al signor Gasparri, uno davvero che è andato giù leggerissimo su Twitter sulla vicenda. Ha detto in pratica, mettendo con un punto di domanda, Vanessa e Greta sesso consenziente con i loro rapitori? E noi paghiamo. Questo è un po' stato il senso. Ha risposto subito Saviano, subito, insomma. Saviano su Twitter ha detto... Se i senatori che mantengono ancora un briciolo di dignità escano dall'aula quando verrà presieduta da Gasparri, che mi risulta essere vicepresidente del Senato, dunque a volte a turno, presiede il Senato. E Saviano dice, cari senatori, alzatevi quando lui presiede e uscite dall'aula. E a piedi caldi se ne sta. Viva i soldi! Viva i soldi! All'alba della settimana numero 90. La paura fa 90. Settimana 90 decisiva per la riforma elettorale e l'abolizione delle province. Io conservo ancora il tweet che Matteo Renzi mi concesse con grande onore quando la settimana decisiva era la numero 33, credo. E mi rispose, oggi lo ripubblicherò su Twitter, mi rispose, ma vedrà che le prossime due sono decisive, pronto a scommetterci. Quindi la 34 e la 35, siamo alla numero 90, 90. E siamo ancora qui a contare, va bene tutto. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, saluto Peter Bescapè in regia, è lunedì con tutto quello che ciò comporta, può aprire il Parlamento e soprattutto è un lunedì dopo l'ennesima... Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. Dopo l'ennesima, come definirla? Vabbè, anch'io mi voglio sempre un po' male. Denis! Il tanque in contropiede, punisce Diego Lopez! Vabbè, mi voglio sempre un po' del male, perché mi attorno di esseri un po' strani, un po' storti, un po' gobbi, un po'... un po' gobbi, ecco, sicuramente. Federico Novella, saluto lui, mattino ci... Eccoci, no, in fuga verso Cologno, in fuga. No, ma sei tu che hai messo. Sì, sì, c'era sull'autoradio. In fuga, mi sento veramente in fuga stamattina. Mamma mia, ragazzi, no. Siamo una curva in festa. Vabbè, questo valga anche per Alessandro Robecchi, è interista doc. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Tu ridi poco, che tanto, voglio dire, noi non ridiamo, ma voi non avete più punti di noi, siete a pari, quindi non è che... Vai, rido io per voi, tranquilli. gli juventini sono così, Robecchi, sono lievemente arroganti, lievemente spocchiosi, lievemente... Essere gobbi, ma raro caso di gente che non sa perdere e non sa vincere. Esatto, è incredibile. Come diceva il compianto Peppino Prisco, quando stringo una mano a uno juventino, conto le dita. onore a Peppino Prisco. Per la verità, diceva, quando la stringo a milanista poi me la lavo, quando la stringo a uno juventino poi conto le dita. Conto le dita. Questo sarebbe l'inno dell'Inter? Ah, quello di Ricky Gianco nuovo. Cioè, avete un inno nuovo, Robecchi? Io no, non credo. Spero no, basta. Come non credo? Cambiare inni, nomi e simboli. No. Basta, una sfiga nera. Esatto, sarà una parodia, non lo so, sarà una parodia di Ricky Gianco, va bene. Allora, siamo sempre lì. Siamo sempre lì alla questione dei soldi, mamma mia. Tu, se fossi senatore, Robecchi, cosa faresti? Ti alzeresti quando presiede Gasparri? Ma è un'ipotesi peregrina, però direi di sì, direi che in tutta questa faccenda, tutta dall'inizio, la cosa più strabiliante è che Gasparri sia vicepresidente del Senato. Questo era già prima, però, questo. Appunto. Esatto. Non è che l'hanno nominato per onore sul campo dopo quel tweet, non è ma che... No. Ma forse più dei senatori sono 60 milioni di italiani che dovrebbero starsi andarsene. Ah, dici, per Gasparri. Vabbè, adesso... Certo, l'ha toccata piano, come si suol dire, questo tweet l'ha fatto così. Tu... Beh, sta nel carattere, nello stile dell'uomo, diciamo. No? Sì. Poi soprattutto su Twitter si scatena, non sa cosa si prende. Su Twitter proprio gli dice la prima cosa che gli passa per la testa, ecco appunto. Ma sì, ma Gasparri ormai è un brand. Come si dice in questi casi, cioè lo prendo, devi prendere così, o lo ami o lo odi, è un po' come la Juve, insomma, cioè, esatto. È così. Gasparri ha un brandy, due o tre bottiglie, però. No. Vabbè, Robecchi, si sa, la sua vena artistica, la sua vena satirica esce sempre fuori, anche alle 6:30 del mattino ci piace per questo. No, però il tema del pago non pago, allora, vogliamo finirla? È chiaro che hanno pagato, come paghiamo per tutti i riscatti, basta. Ieri c'era uno zero. Gli avranno dato la ricevuta, ma no, ma certo, ma voi vi immaginate, cari italiani, ma secondo voi un ministro, qualsiasi ministro, cosa dovrebbe fare? Dovrebbe dire, comunicare l'IBAN dove è stato fatto il bonifico, la banca di Aleppo dove è stato versato, ma si ha scaricato l'IVA anche, no? Esatto, ma io non lo so, ma vi rendete conto? Ma è chiaro che ci sono degli interessi di Stato un po' superiori, no, perché ci vuole, Robecchi, dicono la trasparenza, cioè, quindi dovevano, Gentiloni doveva uscire a dire abbiamo pagato 7.283.000 versati, sì, sul conto. Sarebbe strabiliante, anche perché sarebbe l'unico caso in cui si applica la trasparenza, diciamo. Appunto. Sarebbe strabiliante, comunque uno Stato ha il dovere di salvare i suoi cittadini in pericolo, punto. Sì, è il come che qui fa molto discutere. Ma caro Milan, se parliamo di soldi, allora diciamo che mandare qualche squadra di militari iperspecializzati con degli aeroplani d'appoggio, degli elicotteri, eccetera, eccetera, sarebbe costato di più, secondo me. Quindi... E senza contare i rischi, altre vite umane in gioco, eccetera. Sì, sì, io non ne faccio più una questione più che economica, di conto, di stretto conto economico. La questione effettivamente che pone una problematica, dire, ma se noi li paghiamo, diamo il segnale ovviamente che questi cercano gli italiani, perché un po' succede così, cioè cercano le nazionalità delle persone dove sanno che poi gli stati pagano ma soldi, questo cioè. Bisognerebbe fare il conto di quanti rapiti ci stanno in quelle zone lì, e non credo che gli italiani siano i primi in classifica. Comunque tu, Federico, che idea ti sei fatta? Guarda, diciamo che entrambe le linee hanno le loro ragioni, cioè io direi non è una bestemmia dire non paghiamo il riscatto, anche perché in Italia, in territorio nazionale, è vietato pagare i riscatti, c'è cioè il blocco dei beni, no? Dei familiari. Allora dice, perché in Italia con i sequestri, dell'anonima sequestri, non si può pagare il riscatto e all'estero sì? Quindi, cioè, secondo me ci sono le cose che si vedono e le cose che non si vedono. Le cose che si vedono sono che siamo tutti felici perché le due ragazze sono ritornate. Le cose che non si vedono è che abbiamo dato dei soldi a gente che si comprerà degli armamenti per farci del male, mettendo in pericolo in teoria altri cooperanti, in teoria tutta la comunità italiana che potrebbe essere vittima di altri attentati. Quindi non sto prendendo posizione, sto dicendo non trattiamo come assassini chi si fa dei dubbi sul riscatto, capito? Sì, sul pagare il riscatto. Sì, sì, questo no. È vero, il dibattito è aperto. Che c'hai, Roberto? È vero, il dibattito è aperto. Però prenderei la cosa, a parte che noi abbiamo trattato con tutti, ma non so se voi vi ricordate, abbiamo chiesto al bandito Messina di mediare per la liberazione di Farrukh Hassan. È vero. Abbiamo chiesto a Raffaele Cutolo, quel gentiluomo, di mediare per la liberazione di Ciro Cirillo. Ora, teoricamente abbiamo lasciato morire Moro, però. Ecco, la linea della fermezza si è forse Moro, e che a qualcuno faceva comodo che non tornasse, quindi chi lo sa, chi lo... la linea della fermezza. Però il discorso mi sembra un po' più, cioè un po' di realpolitik. Non pagare il riscatto e dire andiamo a prendere in qualche altro modo, oppure applicare una linea dura, vuol dire inaugurare una politica estera rigida, rigidissima e sostanzialmente un po' di guerra nei confronti di quelle situazioni lì, cosa che ancora noi non abbiamo fatto. E non siamo in grado di fare, perché non siamo in grado di farlo, ma resta il fatto che per il momento, toccando ferro e anche altre cose, diciamo, incrociando tutte le dita del mondo, siamo stati i meno colpiti in Europa dall'estremismo islamico. Sì. Come no? Siamo qua. Però al di là del riscatto, secondo me qualcosina prima bisogna fare, cioè ci vorrebbe una legge che distribuisse il buonsenso, Alessandro. Cioè, il buonsenso vuole che se tu hai 20 anni e non sei preparato, sei un po' sprovveduto e vuoi fare del bene, non vai in Siria dove non si capisce chi è buono e chi è cattivo. Che abbiano fatto un'azione da, bisogna dirlo, senza infingimenti, da imbecilli. Lo sanno anche loro. Ma dai, un po' più alla Gasparri. Vabbè, dai. Però questo si dice ex post. Sì, certo. No? È stato detto subito, poi sai, per prima cosa portarle a casa, ecco, salvare però, la pelle. Però amici miei, mettetevi d'accordo, perché o aiutiamoli a casa loro oppure stiamo qua. No, ma dai. Però Alessandro, guarda, su questo l'hanno detto tutti gli operatori di tutte anche le ONG, i responsabili di tutte le ONG. Cioè, ci vuole anche un attimo di senno per aiutare le persone. Però ricordo che sono stati rapiti anche che è stata rapita anche gente che non era esattamente questo è vero, a maggior ragione, un teatro così complicato dove anche i professionisti si mettono nei guai, a maggior ragione tu che c'hai 20 anni, se vuoi fare del bene, e io sono convinto che volevano farlo, anche se ci sono polemiche anche su questo, sulla loro neutralità, se vuoi fare del bene, ragazzi, ci sono 1000 associazioni di volontariato in Italia e in Africa, vacci, devo dire, su questo sono della linea novella, caro Robecchi. Anche oggi il presidente proprio di tutte le associazioni ONG dice, io gli avrei detto di non andare, ma voglio dire, ci sono situazioni nelle quali uno non è che si può mettere per fare chissà cosa. Per carità, una posizione legittima. Grazie a Milan il dibattito rispetto a quello che dice Gasparri è un pochino più alto. Sì, ma la questione della battuta di Gasparri, sesso consenziente, voglio dire, esatto, più basso di lì credo non si possa arrivare. Ma noi abbiamo qua Cofferati, cioè non è senso, non in onda, cioè di che stiamo parlando? C'è tutto il dibattito sotto il tavolo, dove era? Nell'armadio? No, c'è il dibattito dibattito, dico, su Cofferati, chi se ne frega della Siria, è Cofferati, e il PD si divide, e il PD si spacca. Oggi ho letto la 5486esima dichiarazione di possibile scissione di Civati. Robecchi, Civati dice, ai ai, mi sa che ci siamo, cioè lei va via dal PD. No, Cofferati, per ora, però a primavera vedremo, Robecchi. Ma io, come dire, come sai, io osservo le questioni del PD come quelle di parenti lontani in Argentina, dicendo tanto leggo queste cose, però diciamo anche, cioè riportiamo anche la questione alla sua base, a quello che è successo, cioè ci sono stati dei brogli certificati dal partito. E dopodiché il partito se l'è presa con l'imbrogliato. Non è una bella cosa. Non è bella. No, però è invece, bella invece Renzi dice, ma come? E io me la prendo con te che ti sei fatto truffare. Però invece Renzi dice, pare ai suoi, ma come? Quello ha perso, ci sono stati dei brogli, non si sa bene ancora, fatti contro chi, in alcuni seggi anche nei quali ha vinto Cofferati, insomma è questo, siccome ha perso il partito non va più bene, sai che si possono sempre vedere da due lati. Sì, certo, medaglie. Questo è ovvio, quello ha perso e quindi certo, è esattamente quello che dicevo, cioè il modo di prendersela col truffato invece che con i truffatori. Vabbè, certo, comunque oggi i truffatori hanno vinto, non mi sembra un grande argomento. Oggi Cofferati fa un'intervista molto pacata su Repubblica a dire il PD è alla frutta, anzi no, al digestivo, caro Novella, capisci? Diciamo che loro hanno annullato 4.000 voti, sì, che su 50.000 sono tanti, ma lascia stare che magari avrebbe vinto lo stesso la Paita, cioè non è la finale della Coppa Moretti, è una consultazione democratica, no? Quindi 4.000 voti inquinano in qualche modo, però hanno detto guarda, no, le consultazioni sono un po' inquinanti, un po' regolari, sì, come dire, sono un po' incinta, capito? Sì, sono un sì po' morti. Sono state abbastanza regolari, abbastanza regolari. Sì, io diciamo così che questo getta anche uno strano velo su questo strumento straordinario, questa straordinaria festa della democrazia che sono le primarie, perché quelle a Napoli le hanno annullate per voto di scambio, a Roma molto meno. A Roma abbiamo letto tutti cos'è successo. No? In Liguria è successo questo, adesso devono fare quelle in Campania e dicono che forse è meglio non farle. Quindi ecco, diciamo che se mai è stato uno strumento interessante, ecco, è finito, è un po' finito, insomma, lo straordinario strumento delle primarie. No, aspetta, diciamo che le primarie abbiano funzionato soltanto quando si sapeva già prima il vincitore. Anche la tocca, ragazzi, piano anche Novella, la tocca piano. Se vai a vedere gli annali è andata così, insomma, andiamo al traffico, va gli annali, andiamo al traffico. Per il suo problema le prescrivo un traffico una volta all'ora. 24 mattino. Milan, ma secondo te Pinocchio ha detto la verità dicendo che a fine mese avremo il Presidente della Repubblica? Con questi elementi del Parlamento tu credi una cosa del genere? Ascolti, dottor Milan, io lo stimo molto, ma non sono d'accordo su quello che lei pensa della pena di morte. Lei in questo momento sbufferà. Non approvo anch'io la pena di morte, ma in certe situazioni non ci vorrebbe. Milan, hai idea cosa ci costa la gita scriteriata in Siria delle due ragazze, che ora poi sono state liberate a spese nostre? Sono adulte e ci sono andate di loro volontà. Per me potevano anche rimanerci. Io non scuccio neppure un centesimo, capito? Basta queste storie, questi pietismi. Dal più piccolo al più grande italiano, buon riposo e lunga vita a Giorgio Napolitano. Ho io il nome del nuovo Presidente della Repubblica? Una donna, innanzitutto, che ha più di 50 anni, ha già lavorato in Parlamento e come non si può pretendere che dopo che ha fondato il Partito dell'Amore Cicciolina non diventi Presidente della Repubblica? Allora siamo a posto! Potrebbe essere un nome da lanciare qui da 24 mattino, caro Federico Novella, tu gran cultore, d'altronde si sa, di Cicciolina. Come tutti noi juventini, certo, ovviamente. No, certo. Guarda che anche gli interisti, guarda che Robecchi, per esempio, ha tutta la collezione. È trasversale. Oh, amici, io ero un po' più giovane, Non avevo ancora, diciamo, quelle pulsioni a quei tempi. Ma come? Vabbè, ma insomma, come la vedi Cicciolina? Vabbè, dai. Andiamo avanti. Allora, no, posso fare una cosa sulle primarie? Le ultimarie. Non esiste nell'universo, si parla di un'eccezione su Alfa Centauri, ma non sono sicuro, non esiste nell'universo delle elezioni primarie in cui può votare anche l'avversario. Cioè non esiste un sistema in cui uno può andare a votare all'interno di un partito il suo avversario alle prossime elezioni. Effettivamente. Succede solo qui. Effettivamente. L'avversario o i cinesi anche, perché c'erano battaglioni di cinesi. L'abbiamo detto, ma noi infatti dovremmo ma noi dovremmo guardare con ottimismo, siamo l'unico, uno dei pochi paesi che siamo riusciti a far votare dei cinesi. Siamo un laboratorio politico. Esatto. Vabbè, comunque dai, vi faccio sentire Renzi su Brunetta, perché non si sa perché, perché adesso c'è il dibattito, perché pare che Berlusconi, che ieri era infuriato con Inzaghi, dico solo questa, Berlusconi ieri ha ricucito un po' con Brunetta, perché c'è il PD che invita il Movimento 5 Stelle sulla legge elettorale, si è arrabbiato, insomma una roba un po' così complicata, e allora ricuce con Brunetta e gelo sul patto del Nazareno. Questo è il termometro di oggi, Renzi. Corsi e ricorsi della storia, no? Cioè Brunetta, che diventa il re dei fannulloni dopo averli contestati, è una sorta di assurdità. Perché uno dice: no, noi abbiamo bisogno di tempo per discutere, certo. Cioè, il re dei fannulloni, sono sicuro che Brunetta se la sarà presa tantissimo. Poi sai che a Renzi il tempo per discutere non piace. Ah, eccolo lì, Roberto. A Renzi gli piace decidere. Decidere, decisionismo. Infatti dice sempre: ah, discutete, poi io decido. E quindi chi discute non è suo amico. Ma sentite un po', sapete che ho letto un articolo interessantissimo, forse il più interessante che ho letto, sulla Svizzera. Eccolo qua sul Giorno. Meno affari per le escort, sai che c'è quel casino lì sul franco, certo. E qui qui vado da Federico Novella, notorio. Ma vedo che hai un'idea del sottoscritto molto alta, diciamo. Esperto di Svizzera, intendo. Ah, no, certo, un elvetista. Hanno fatto un viaggio oltre confine, perché gli italiani, si sa, vanno in Svizzera per il cioccolato, per portare i soldi anche, per portare dei soldi, oppure si sa, vanno in Svizzera perché lì ci sono i bordelli. Ma non è che lo dico io, certificato, tutti i clienti sono italiani. Allora, non devi vergognare, Alessandro. Non mi vergogno, anche questa normale, ma non mi vergogno mica per te, guarda, figurati. Tra l'altro, Samantha, più chiara di così non può essere, il nostro giro d'affari è slegato dal tasso di cambio. Vedi quelle professioni che resistono comunque. Ma quando uno sa fare l'imprenditore, riesce a superare questi ostacoli, monetari. Valutari, passeggeri, capisci? E tra l'altro sono legato dal tasso di cambio. Cosa vuol dire? Che si fanno pagare in dollari? No, secondo me è che di franco su, franco giù, euro su, euro stabile, euro forte, euro debole, il giro d'affari è sempre quello. Certo. Poi ci sono cose che non tengono pensieri. D'altronde mi ha anche molto colpito sapere come le chiamano. Sapete come vengono chiamate? Cortigiane. Così si chiama, tra velluti rossi e cortigiane, si chiamano le ragazze che offrono prestazione. Le cortigiane. Un po' come quando si dice che Gaspari è senatore, è un giro di parole. Un giro di parole, no. Vabbè, dai, ma voglio chiudere, visto che siamo partiti con il calcio. Ma secondo voi, subito, veloce, Inzaghi andrebbe esonerato, Robecchi? Ah, ma no, ma io contrariamente alle primarie dove votano anche gli altri, non voti di casa vostra, non dirò mai. Vabbè, tu Federico che dici? Ma no, teniamo anche perché non vedo molte alternative in giro, no? Ti ringrazio, l'hai detto con un tono come dire, tenetelo ancora un po', così va sempre meglio, così va sempre meglio. Fidatevi, tenetevelo. Ma voglio chiudere con lui, Erviperetta. No, ma sentite questa, Erviperetta, sapete Erviperetta, no? Il presidente a Sampdoria, che ha preso i tu. Io l'amo Mariale perché lei si imbarazza sempre un po' perché ha paura che io dica qualcosa. No, no. Posso solo dire che l'amo Mariale. Grazie presidente. Ecco Mariale, arrivedo. La salutiamo. Amo tanto male. La saluto. Mi do una botta di vita. Grazie a questa trasmissione. La saluto presidente e noi la ringraziamo. Erviperetta, hai capito? Viene chiamato ma era per sobrio? Sì, sì, soberrimo. E viene chiamato per alzare l'audience praticamente. E do una botta di vita. Uno di noi. Devo dire che vedere Eto'o sui campi italiani fa bene al cuore. Fa bene al cuore. Che non ci sia un monumento e questo. Mi ricordo quando faceva il terzino nell'Inter. Mi ricordo benissimo. Bei tempi. Poi dopo ha fatto una carriera da centravanti. A parte terzino all'Inter, ha fatto anche il centravanti. Ha segnato un golletto a Londra, non male. Non male. Comunque è il presidente che vorrei io. Si vince, si ride e non si sparano cavolate tipo il terzo posto. Lì si conquista. Grande Viperetta. Ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Avanti, cari italiani, che la 90esima settimana decisiva per la riforma elettorale è cominciata, così come per l'abolizione delle province, e si sa che la paura fa 90. E allora forse sarà la settimana decisiva per l'appunto. Chi lo sa, staremo a vedere. Noi parleremo di attualità politica tra il Quirinale, le polemiche Cofferati PD, ma anche, se volete, gli strascichi delle polemiche per il riscatto pagato, perché chiaramente l'abbiamo pagato, ma queste cose giustamente non si dicono. Ripeto, giustamente non si dicono, per le due ragazze che sono tornate dalla Siria. Avremo ospite Claudio Velardi, avremo ospite Alessandro Sallusti, direttore del giornale, avremo ospite anche l'onorevole Gianluca Pini della Lega, sia per parlare di Vanessa e Greta, lui è stato molto duro, ma anche un po' per parlare del Quirinale, capire la Lega che linea terrà. Questo dalle 8.15, ora leggiamo i giornali. In questo lunedì 19 gennaio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì apre con un titolo dedicato ai professionisti, casse dei professionisti, un 2015 da stress test, questo è il titolo di prima pagina, mentre il Corriere della Sera ha uno sguardo a quello che succede negli Stati Uniti, dove domani Obama pronuncerà il discorso sullo Stato dell'Unione, appuntamento annuale importantissimo per il presidente americano. Obama svolta sulle tasse, rotto il tabù, più imposte su eredità e ricchezze, sgravi al ceto medio. È un Obama che lancerà un piano per aumentare la tassazione ai più ricchi e sollevare così il ceto medio. Queste sono le anticipazioni. Poi per Repubblica, Quirinale, il caso Cofferati divide il PD. Mentre il giornale, il PD minaccia Renzi sul Colle, e così il Messaggero, corsa al Colle, tensioni nel PD. La Stampa invece apre con questo titolo: terrorismo in Italia, scatta il livello massimo di allerta. E voglio partire dalla lettura dei giornali proprio qui, da qualche articolo, dai tanti articoli dedicati proprio alla lotta al terrorismo, perché ci sono tanti spunti interessanti, a cominciare da quello che racconta il Messaggero, soprattutto c'è su tutti i giornali questa notizia, ma il Messaggero, visto che è successo a Roma, dedica una pagina a questa notizia di cronaca, pagina 7, a bordo con il passaporto falso bloccato un aereo a Fiumicino. È successo ieri un allarme allo scalo romano subito prima del decollo di un volo EasyJet per Londra. Era a bordo un passeggero con un passaporto pakistano risultato falso. La segnalazione è arrivata dalla polizia, un uomo di origine meridionale col passaporto falso bloccato all'ultimo il decollo. Le verifiche e i controlli hanno confermato la partenza bloccata, l'uomo portato via dagli agenti, i bagagli trasferiti a terra per individuare quello del passeggero sospetto. Ora indaga l'antiterrorismo del Viminale, che sta cercando di stabilire attraverso le impronte digitali chi sia quel passeggero che aveva un passaporto pakistano falso e se fosse tra i cittadini ritenuti pericolosi anche dalle altre polizie europee. Così Valentina Errante e Mirko Polisano raccontano questa vicenda di cronaca dai contorni ancora molto nebulosi e che però inquieta non poco, come inquieta quello che racconta Grazia Longo sulla Stampa, pagina 3. Ricordate le polemiche per una italiana cresciuta in Zago, convertita, andata in Siria, ora pare che ci sia un secondo caso. E infatti il titolo della Stampa è questo, il replay del caso Fatima, un'altra ragazza italiana arruolata dal califfato. Si tratta di una ragazza di origine marocchina, cresciuta a Milano, di 20 anni, cresciuta con un lavoro stabile, anche con un abbigliamento assolutamente occidentale, poi a un certo punto cambia le sue abitudini, si radicalizza dalla radicalizzazione estetica con l'abito nero stile burka, l'ostentazione di atteggiamenti nel nome del grande Allah, fino all'appoggio all'ISIS e ora pare che sia in Siria. D'altronde Alfano ieri ha convocato una conferenza stampa di domenica, come racconta il Corriere della Sera, non è cosa da tutti i giorni per un ministro dell'interno, per raccontare di 9 espulsi, 5 tunisini, un turco, un egiziano, un marocchino, un pakistano, molto attivi sul web, alcuni dei quali reclutatori. Chi sono i reclutatori della Jihad in Italia? Fiorenza Sarzanini a pagina 5 del Corriere della Sera. Davvero c'è questo allerta che viene portata ai massimi livelli per quel che riguarda l'Italia. Anche il Secolo XIX racconta a pagina 3 come la Digos abbia individuato 4 persone in Liguria considerate da espellere, una decisione che verrà presa a breve perché la polizia genovese segnala questo gruppo di nordafricani, come racconta Matteo Indice, persone che inneggiano alla Jihad e che devono essere al più presto espulse dall'Italia. D'altronde il tema della sicurezza è il tema principale per molti giornali, che magari non aprono con il titolo di prima pagina, ma guardate anche Repubblica a pagina 2-3, ci si concentra su quello di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, il PNR, cioè il Passenger Number Record, cioè un database, una scheda individuale di ogni passeggero che le compagnie aeree dal momento in cui entrerà in vigore dovranno mettere a disposizione delle forze dell'ordine. È un qualcosa che in Europa finora non è passato perché alcuni stati si sono opposti in nome della privacy, ma che ora in nome forse di una sicurezza maggiore, il caso anche dell'EasyJet di ieri lo dimostra, con un passeggero a bordo con un passaporto falso, ora dovrebbero convincere tutti i vari stati a vincere queste resistenze sulla privacy e far passare a livello europeo questo PNR. Racconta Repubblica, la svolta dell'Unione Europea è proprio questa, un codice per schedare i passeggeri. Dovrebbe arrivare questa volontà di vincere le resistenze della privacy e registrare, oltre alle schede anagrafiche con nome, cognome, indirizzo, alle informazioni di viaggio, date, i luoghi di partenza, destinazione, questo database che raccoglie anche elementi personali potenzialmente sensibili, come le preferenze sul pasto consumato a bordo, da cui si potrebbe desumere informazioni di tipo religioso, eventuali esigenze sanitarie o semplicemente il metodo di pagamento del biglietto, tutti dati che poi dovrebbero confluire alle polizie europee. È una guerra non convenzionale, se si vuole la sicurezza. Mentre Repubblica, sempre a fianco di questo articolo, fa sapere con Giuliano Foschini e Fabio Tonacci che anche Banca Italia in questo senso è molto in allerta, perché negli ultimi anni, dal 2009 a oggi, sono state segnalate mille transazioni sospette da Banca Italia. Pensate che solo nel biennio 2012-2013 300 bonifici sono stati bloccati, soldi partiti dall'Italia e finiti, temono gli inquirenti, delle tasche della Jihad, centinaia di migliaia di euro in bonifici che hanno tutti un emittente con nome e cognome. Insomma, il concetto del follow the money, cioè segui il flusso del denaro anche per Banca Italia, è un qualcosa che potrebbe in qualche modo stroncare il terrorismo internazionale. Vabbè, come vedete l'allerta è massima e articoli ce ne sono tanti. Voglio citare due cose prima della pubblicità, a cominciare dalla questione dei dipendenti pubblici, che spesso è tema che affrontiamo, e la notizia che viene data da tutti i giornali è questa: Andrea Bassi sul Messaggero d'Ampio, risalto a pagina 10. La pubblica amministrazione, sapete quanti sono gli provvedimenti che sono stati disciplinari, aperti nei confronti dei dipendenti pubblici? Sono migliaia, 6.400 errotti. Sapete quanti licenziamenti finali sono arrivati? 220 in tutto. Pubblica amministrazione, solo 220 licenziati in un anno. Metà di questi per troppe assenze, è lo 0,007 su 3 milioni di dipendenti pubblici, 0,007. Questo anche sul Quotidiano Nazionale: 220 licenziati in un anno, quasi la metà per assenteismo per quel che riguarda gli statali. Ma l'articolo che mi fa più incazzare di questa giornata, per iniziare il lunedì, è ciò che Sergio Rizzo, a pagina 23 del Corriere della Sera, racconta sulle dinastie burocratiche italiane. Ci si concentra in questo caso sui dipendenti di Camera e Senato, consiglieri, commessi, segretari. Ecco il Parlamento dei parenti, è la burocrazia più ricca di intrecci familiari d'Italia, quella delle Camere. Chi guarda con apprensione la fusione tra amministrazioni di Camera e Senato si può tranquillizzare, scrive Rizzo. Ruolo unico è già realizzato per via familiare. Basta vedere l'ultima elezione dell'incarico del segretario generale di Montecitorio, Lucia Pagano, figlia dell'ex consigliere della Camera, Rodolfo Pagano, moglie del capo dell'informatica del Senato, Mauro Fioroni. Ma ancora, il vice di Lucia Pagano è Aurelio Speziale, sposato con Gloria Bagnale, consigliere al Senato. Giovanni Gifuni, invece, consigliere alla Camera, è figlio dell'ex potentissimo segretario generale del Senato, Gaetano Gifuni. L'ex vice segretario generale della Camera, Carlo Goracci, è il papà di Alessandro Goracci, alto funzionario del Senato. Il padre di Ugo Zampetti, fino a qualche giorno fa capo indiscusso della burocrazia Montecitorio, era responsabile della biblioteca del Senato. Quello, il padre dell'attuale segretario generale del Senato, Elisabetta Serafin, era un commesso del Senato. Commesso come anche il papà di Daniela D'Ottavio, consigliera d'aula, a dimostrazione del fatto che l'ascensore sociale, fermo ormai ovunque, qui non è mai andato in manutenzione, racconta Sergio Rizzo. Sono assolutamente solo alcuni casi, si potrebbe continuare, in quella che è la burocrazia più ricca di intrecci familiari italiani. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, funicolare senza corrente. Vabbè, funicolare senza corrente, ma che vuol dire? Vabbè, ma il nostro amico che è Bastiano da Foggia, no, un altro, vabbè, un grande abbraccio a te, caro ascoltatore. Allora, tuffiamoci nella questione politica, che ovviamente è dominata sui giornali da alcuni fattori. Il primo è ovviamente la corsa al Quirinale, ma c'è anche la legge elettorale. In questi 15 giorni Renzi si gioca un po' tutto politicamente, come fanno notare alcuni notisti della politica. E poi c'è il caso Cofferati. Allora, questi sono i tre elementi principali sviluppati dai giornali. Come racconta nel suo retroscena Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, pagina 14, per Renzi non sono giorni facili. Lui dice ai suoi: vedrete, riusciremo a fare la riforma elettorale lo stesso, nonostante la corsa al Quirinale. E poi parla del caso Cofferati. Non ritiene Renzi che l'ex segretario della CGIL Cofferati abbia il carisma per diventare il leader incontrastato di una nuova formazione a sinistra, perché questa è la tematica principale, cioè che fa ora Cofferati, che ha annunciato esco dal PD. Beh, intanto spara qualche bombetta politica. Intervistato da Repubblica, da Umberto Rosso, a pagina 10, sentite Cofferati: vedo che Renzi va in televisione a darmi dell'ipocrita, che i vice segretari bollano come inspiegabile il mio addio al PD, solo insulti e offese. Se un partito, invece di chiedersi le ragioni delle dimissioni di uno dei suoi fondatori, reagisce così, siamo alla frutta, anzi ormai al digestivo. Così Cofferati: io per un mese e mezzo ho informato Serracchiani e Guerini, due vice di Renzi, dello scempio che si stava consumando in Liguria. Mai una risposta, nessuna. Così i politici e i pericoli che temevo si sono puntualmente avverati. Era insomma stata pianificata una vittoria a tavolino con l'appoggio del centrodestra per la mia rivale Paita. Alcuni suoi esponenti del centrodestra, come il segretario regionale del nuovo centrodestra Saso o l'ex senatore del Forza Italia Orsi o il fascista Minasso, lo avevano pubblicamente dichiarato. Insomma, Cofferati spara a zero sul PD. Poi c'è il tema però, ma allora lascia anche Strasburgo, l'Europarlamento, cioè il seggio dove è stato votato con il PD? E sentite cosa risponde Cofferati: alle elezioni europee, dove molti fanno finta di dimenticare che si vota con le preferenze, sono stato rieletto con 120.000 voti. Alcuni hanno segnato il mio nome perché era nella lista del PD, ma molti altri perché hanno scelto Cofferati e di conseguenza la lista del partito. Insomma, dice Cofferati: non mi dimetto perché lì hanno scelto me, Sergio Cofferati, non tanto il PD. A proposito di questo si concentra il giornale Stefano Filippi, a pagina 2, è un po' duro. L'ex CGIL fa il duro e puro, ma in Europa è un assenteista da 20.000 euro al mese. Se ne va dal PD, ma secondo le classifiche del sito www.mepranking.eu, che racconta il giornale, è un radiografo infallibile delle eurofatiche, Cofferati è collocato nei bassi fondi della classifica al posto 685 su 750 parlamentari europei per quel che riguarda gli interventi, le iniziative di legge. Sono 4 interventi in seduta plenaria, un parere in quanto relatore, 5 interrogazioni parlamentari, nessuna delle quali porta il suo nome come primo firmatario. Insomma, tutto qui. Da 1 a 10 il suo voto sarebbe 0,9, inqualificabile. Partecipazione ai voti per appello nominale che non raggiunge il 60%, ha risposto presente in 168 chiamate su 282, disinteresse quasi assoluto. Ecco allora l'attacco del giornale a dire in realtà è un assenteista in Europa. Mentre Civati fa la sua intervista numero 8300 per dire: forse ce ne andiamo. Intervistato dal quotidiano nazionale, c'è disagio, inizia così Civati a parlare, dice: magari il prossimo che se ne andrà sarà Civati, parla di se stesso in terza persona, che fa rima con Cofferati peraltro. Non ho chiesto ai miei di uscire dal partito, ma come me c'è chi non regge più. il deputato genovese Luigi Pastorino, ad esempio. Insomma, dice, a primavera, diciamo, ci sarà lo strappo. Ebbene, ma e quanti la seguiranno, Civati? Pochi, pochissimi. D'altronde siamo al governo, sotto i 10. Ecco, sotto i 10 mi seguiranno. Comunque, Civati dice, ora c'è molto disagio. Da questo punto di vista anche Landini fa un'intervista al Corriere della Sera candidando Cofferati al nuovo Tsipras, lo Tsipras italiano potrebbe diventare questo. Il vero problema è che succede ora in Liguria. Sel e Civatiani sceglieranno un candidato alternativo a colei che ha vinto le primarie del PD, cioè Raffaella Paita. Pare di sì, questi sono rumors, pare di sì, e questo candidato potrebbe essere, secondo alcuni, Carlo Freccero, 67 anni, una vita in Rai, autore televisivo. Secondo altri potrebbe essere Ferruccio Sansa, del Fatto Quotidiano, figlio dell'ex sindaco di Genova, che però smentisce. Sta di fatto che è un gran casotto per quel che riguarda le primarie liguri, mentre è abbastanza ancora tutto fumosa la questione del Quirinale, chi ci sarà, la sfida sembra sempre tra Amato e Mattarella, questi almeno i nomi che fino a questo momento circolano di più. Secondo Repubblica, il retroscena di Goffredo De Marchis, a pagina 12, ci sarà un incontro Renzi-Bersani, eccolo qui, il patto a due per scegliere il candidato, già fissato un incontro. Renzi e Bersani potrebbero incontrarsi per decidere chi sarà. Mentre in tutto questo c'è la questione dell'Italicum, della legge elettorale. Siamo all'inizio della 90ª settimana decisiva e sappiate che sull'Italicum il PD con Deborah Serracchiani ha mandato una lettera al Movimento 5 Stelle chiedendo: collaborate con noi, votate il premio di lista. Così Berlusconi si è molto arrabbiato a dire: ma come il Movimento 5 Stelle cioè PD che apre al Movimento 5 Stelle, allora c'è il gelo sul patto del Nazareno. Così racconta Tommaso Labate sul Corriere della Sera. Ieri un Berlusconi infuriato, soprattutto per la splendida prestazione del Milan, evidentemente attorno alle 18, attorno all'ora di cena, gli arriva anche la notizia di questa apertura del PD al Movimento 5 Stelle, e allora Berlusconi, secondo il Corriere della Sera, ha pensato: oh, c'ho Inzaghi che non ne imbrocca più una, il Milan che perde sempre, eppure questi che mi vogliono far fuori politicamente. È un Berlusconi che pare ieri a ora di cena abbia fatto in qualche modo adombrare l'ipotesi di far saltare il patto del Nazareno, ma sono tutte schermaglie e indiscrezioni come quella che cita il Corriere con Antonella Baccaro a raccontare a pagina 11 che il governo gioca la carta Montezemolo. Secondo il Corriere, Renzi sarebbe pronto a dare un incarico di consigliere per attrarre investimenti esteri in Italia e promuovere il Made in Italy a Luca Cordero di Montezemolo. Pagina 11. Dopo l'incarico all'ex amministratore di Luxottica Guerra, l'ipotesi di un ruolo da consigliere anche al presidente all'Italia Montezemolo. Staremo a vedere. Ma allora una consulenza anche al nostro Mauro Meazza si potrebbe dare. Mauro, tu... Buongiorno Alessandro. Buongiorno, ma come, cioè, dove dovrei andare precisamente? Consulenza calcistica? Al Quirinale, al Milan? No, una consulenza. Al Milan potresti, Meazza al Milan e Milan al Meazza. Potrebbe fare notizie in un certo senso, sì. Però non so come risultati. Sei poi titolabile. Non posso garantire niente. Sei titolabile. Sono un buon titolo, ma non posso garantire niente. No, scusami, ero distratto perché stavo leggendo del nuovo riccometro. Sì. Sai che abbiamo cambiato le regole per l'ISEE, così si chiama in termini mm-hmm. puntuali, l'indicatore della situazione economica equivalente, però sul Sole 24 Ore siamo andati un po' a vedere come funziona, e pochino per adesso, perché c'è un po' di pasticci e di intoppi. E tra l'altro, insomma, promette anche, ma questo si era un po' capito anche nelle ultime settimane dell'anno scorso, di essere decisamente meno generoso di quello che l'ha preceduto, della versione che lo ha preceduto. Ma vabbè, se vuoi scoprire tutto, Valentina Medis insieme a un po' di altri colleghi è andata a vedere che succede nelle varie sedi. Insomma, se vuoi il ricometro, devi di un pochino fartelo da solo con il computer per adesso, poi vedremo se questa settimana le cose migliorano. Aspettiamo tutti l'investment compact, tu aspetti l'investment compact, assolutamente, caro. Sì, anche il quantitative easing, non riesco a dirlo, quantitative easing. Per aiutarti abbiamo fatto anche una pagina per spiegare che roba è. Ma chissà perché l'ho citato. No, è appunto, so che tu avrai sicuramente letto e tenuto da parte questa pagina, perché il quantitative easing, che non è un modulo particolare che la tua squadra o anche la mia, devo dire, possono adottare per cercare di risollevare le loro sorti, no, invece è una cosa molto importante che dovrebbe succedere giovedì, ma tutti particolari sul Sole 24 Ore. E poi ti voglio dire che abbiamo fatto anche un altro riepilogo di una certa utilità, quello sui bonus edilizi, il 50-65%, cioè tutto è stato rivisto dalla legge di stabilità. Allora, se vuoi il quadro completo, oggi puoi andare a leggere, indovina quale parte del Sole 24 Ore, guarda che è una domanda facile. Sì, adesso lo temo, perché ogni tanto, forse norme e tributi? È norme e tributi, non ti faccio sempre domande, abbastanza però insomma. No, stai tranquillo, non sempre ti faccio domande tra bocchetto e voglio metterti in difficoltà. E poi naturalmente aspettiamo di vedere come finisce la vicenda dei tagli alle regioni, perché entro la fine di gennaio bisogna trovare 4 miliardi, tu comincia a prendere i tuoi due urini, perché probabilmente dovremo mettere mano ai nostri portafogli. Ma tutto questo te lo spieghiamo oggi sul Sole 24 Ore. Caro Mauro, ti ringrazio perché i tuoi auguri alla mia squadra domenica che hai fatto venerdì hanno portato molto bene. Ti ringrazio. Rinnovo gli auguri per tutto il campionato e anche per le prossime 5 stagioni alla tua di squadra. Ma io comunque mi sono messo a disposizione anche come allenatore, se ti interessa, non ho nemmeno il patentino, però non importa, mi sembra un dettaglio. Dov'è Milan? Dov'è il Milan, oserei dire io, dov'è il Milan? Comunque io ho una ricetta per risollevare il Milan, ve la dico tra poco quando leggo il titolo della Gazzetta dello Sport. Una ricetta efficacissima, funziona nel 99% dei casi. Allora, la questione ricchezza e la questione tasse. I giornali si concentrano su quello che sta per annunciare Obama domani, discorso sullo Stato dell'Unione, importante appuntamento annuale. Il nuovo fisco di Obama colpisce i super ricchi e soccorre il ceto medio. Che cosa annuncerà domani Obama? Lo anticipa Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. Dovrebbe annunciare tre misure. L'aumento dal 23 al 28% della tassa sui dividendi e capital gain di chi ha un reddito superiore al $500,000 l'anno. Poi, due, l'estensione del prelievo fiscale ai trust che oggi vengono usati dalle famiglie più facoltose per trasmettere la loro ricchezza agli eredi, evitando ogni tributo. E tre, un maggior prelievo su banche e finanziarie di grandi dimensioni, concepito in modo da colpire chi fa un ricorso maggiore all'indebitamento. È una manovra consistente, ma non gigantesca né radicale, $320 miliardi in 10 anni, senza aumenti delle aliquote sui redditi da lavoro o riduzione di sgravi oggi molto generosi come quelli sui mutui casa. L'ipotesi di Obama è quella appunto di fare queste 320 miliardi di tasse sui più abbienti per finanziare gli sgravi a favore della classe media, del cittadino comune. Un Obama che, come sapete, comunque non potrà ricandidarsi dopo due mandati, però vuole in qualche modo, con anche un congresso in mano ormai tutto ai repubblicani, risollevare le sorti del Partito Democratico, e lo farà domani. Mentre interessante lo studio, l'analisi che Repubblica fa sulla ricchezza in Italia. La fa Federico Fubini, trovate a pagina 16 e 17. Il titolo è questo: la crisi raddoppia il patrimonio alle 10 famiglie dei paperoni italiani, ora più ricche di 20 milioni di italiani. Cerchiamo di capirci. Nel 2008, racconta Repubblica, la ricchezza netta accumulata del 30% più povero degli italiani, cioè il 30% degli italiani che guadagnavano meno, 18 milioni di persone, era pari al doppio del patrimonio complessivo delle 10 famiglie più ricche del paese. Insomma, i 18,1 milioni di italiani più poveri avevano messo insieme 114 miliardi di euro tra immobili, denaro liquido, risparmi. Le 10 famiglie più ricche arrivavano a un totale di 58 miliardi di euro. Si parla delle 10 famiglie più ricche, cioè Leonardo Del Vecchio, Ferrero, Berlusconi, Giorgio Armani, Francesco Gaetano Caltagirone, eccetera. 5 anni dopo, nel 2013, sorpasso e doppiaggio sono già consumati, e cioè le 10 famiglie con i maggiori patrimoni ora sono diventate più ricche di quanto lo sia nel complesso il 30% degli italiani più poveri. Quelle grandi famiglie a questo punto detengono nel complesso 98 miliardi di euro, erano a 58 miliardi. Insomma, per loro un balzo in avanti patrimoniale del 70%. I 18 milioni di italiani al fondo delle classifiche sono invece scesi a 96 miliardi di euro, una scivolata in termini reali del 20%. Insomma, la crisi raddoppia il patrimonio ai ricconi, i paperoni, scrive Repubblica, rispetto alla classe più povera italiana. E poi l'analisi ovviamente continua, un'analisi interessante di come abbia impattato la crisi su questo. Veniamo alla cronaca, poi vi dico la ricetta per risollevare il Milan. La cronaca è questa, soprattutto c'è ancora polemica per il convegno sulla famiglia organizzato dal direttore di Tempi, moderatore per la verità, Luigi Amicone. Era presente anche il nostro amico Mario Adinolfi, domani sarà ai nostri ospiti per spiegarci cosa è successo e soprattutto le polemiche per una presenza a questo convegno sulla famiglia, perché dietro al presidente della regione Maroni, dietro a Formigoni, dietro agli assessori della regione Lombardia sedeva un prete pedofilo. Questo è il titolo di Repubblica: Milano, prete pedofilo al convegno anti-gay. Beh, il convegno non era anti-gay. Comunque, la presenza di Don Mauro Inzoli, che è stato punito dal Vaticano e ridotto allo stato laicale per pedofilia, seduto in seconda fila, sorridente, dietro al presidente Maroni e al suo predecessore Formigoni, di cui per lungo tempo è stato confessore, era lì. E anche ora il direttore di Tempi, Luigi Amiconi, moderatore del convegno, dice a un libero cittadino: non mi risulta che abbia restrizione alla circolazione. Mentre Mara Dinolfi dice: la pedofilia mi fa schifo. Ovviamente, detto questo, chiederei un po' di equanimità al prossimo congresso dei radicali con Mambro e Fioravanti. Nel loro caso non dovete fare la fatica di cercarli, perché parlano dal palco. Ecco, insomma, la polemica però per la presenza di Don Mauro Inzoli, anzi non più Don, ridotto allo stato laicale dal Vaticano. Eccolo qui, allora, Inzaghi sotto tiro, la ricetta è molto semplice per il Milan: calci nel culo a due, finché diventano dispari ai calciatori. Vi piace come ricetta? A due finché diventano dispari. Comunque, Inzaghi sotto tiro, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, con la Juve che vince, allunga più 5 e il Milan che pensa a sostituire Inzaghi forse. Ma il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina su un'operazione a cuore aperto per un salvataggio con il pacemaker, primo caso in Europa per il gatto Mario cardiopatico. Racconta Repubblica la storia del primo intervento per il gatto Mario cardiopatico con pacemaker. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Siamo qui, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 19 minuti, probabilmente è vero che nei prossimi giorni, da qui alla fine gennaio, come scrive qualcuno, Renzi politicamente si giocherà molto della sua avventura a capo del governo, C'è da eleggere il Presidente della Repubblica e lui giura entro fine gennaio, la prima seduta sarà il 29, c'è da approvare anche la legge elettorale. E anche in questo caso Renzi, come raccontano i giornali, ogni giorno dice: ce la faremo, nonostante ci sia da eleggere il Presidente della Repubblica, riusciremo anche a far approvare la legge elettorale. Io, sapete, tengo il conto, siamo alla 90esima settimana decisiva, così viene definita tutte le settimane dai giornali, di questa legislatura, 90esima. Su tutto questo, se volete, c'è anche il caso Cofferati. Magari tra un mese del caso Cofferati non si parlerà più, però al momento c'è un Cofferati che abbandona il Partito Democratico dopo aver perso le primarie in Liguria. Non voglio fare un altro partito, non entro in un altro partito, siccome vedo che il mio partito ignora quello che secondo me è un grande problema etico, oltre che politico, che sono i nostri valori di riferimento, io esco. Io esco, però dice non voglio fare altri partiti, non entro in altri partiti. Che farà allora Cofferati? Oggi sui giornali si racconta che il caso Cofferati peserà sulla nomina al Quirinale. Staremo a vedere. Intanto voglio salutare Claudio Velardi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno Velardi, a voi. Eccoci. Così come il direttore del giornale Alessandro Sallusti, buongiorno Sallusti, eccoci. Buongiorno. Ben ritrovato. Velardi, peserà il caso Cofferati e come? Ma non più di tanto, in realtà quella di Fassina che ieri ha dichiarato, diciamo, questo peso, ha fatto una specie di confessione ieri, cioè ha confessato che l'elezione del Conte con il caso Cofferati non c'entra niente, che è del tutto strumentale la posizione che la minoranza PD prende, e conferma che l'unico obiettivo della minoranza PD è mettere in difficoltà Renzi. Sulla nomina del Quirinale. Come potrebbe metterle? Ma che cosa c'è? Beh, mettendo insieme un po' di voti, facendo un po' qualche richiesta in più, cercando di organizzare un po' le truppe di minoranza. Però io penso che oramai dentro la minoranza PD ci sia una parte più marginale che questa dei Fassina, dei, come si chiama quello lì che parla sempre, Scilati e così via, mentre invece con il grosso della minoranza PD Renzi si avvia a fare un accordo, mi pare. Sì. Questa è un po' quella. Ma infatti oggi Repubblica racconta che Renzi incontrerà presumibilmente Bersani, presumibilmente qualche giorno prima del 29. E sì, quindi deve stare attento a Bersani, perché Bersani è una vecchia volpe, ma siccome Renzi è anche lui una volpe, anzi una volpissima, e per di più un po' più giovane, non penso che si farà fregare. Ma anche perché l'accordo con qualcuno, i voti, dovrà insomma, sì, mettersi là, o lo fa col Movimento 5 Stelle, o lo fa con Forza Italia, o se no. No, non lo fa col Movimento 5 Stelle. Lui deve portare a casa quanti più voti è possibile dentro il PD, sono 450. Può mettere nel conto finanche che ci siano, ma che ti devo dire, 80 franchi tiratori, va bene? Sì. E sono tanti. Dopodiché su questa base lui imbarca i centristi, che devono starci perché tengono a cuore il governo, quindi non possono fare troppo, diciamo. E ce la fa, e poi si mette d'accordo con Berlusconi, il quale Berlusconi non può lasciare il suo partito nelle mani di Brunetta e di tutti quelli che danno di matto, diciamo dei suoi cofferati, dei suoi cilati. È interessante, non so, perché abbiamo qui Alessandro Sallusti e pare che ieri, non si sa perché, se perché è scottato dalla sconfitta del Milan, ennesima, a proposito magari Inzaghi viene anche cacciato, non si sa se perché il PD ha mandato una lettera con Deborah Serracchiani a chiedere al Movimento 5 Stelle collaborate sulla legge elettorale, ma pare che ci sia stata un'inversione di tendenza, cioè un Berlusconi un pochino più vicino a Brunetta e un pochino più lontano dal patto nel Nazareno. Sallusti, anche qui però il barometro quotidiano viene modificato da che cosa? Qual è l'umore di Berlusconi ora? Il suo umore non lo so, immagino il solito, ma io credo che da qui all'elezione del Presidente in entrambi gli schieramenti assisteremo a degli stop and go, minacce di scissione da una parte, poi ritirate, tensioni dentro Forza Italia. È molto diverso il caso Brunetta, chiamiamolo così. Brunetta non è che vuole lasciare il partito, sospendersi dal partito, creare una corrente dentro il partito. Brunetta da sempre gioca all'interno della squadra del centrodestra il ruolo di quello che appaia contro non il Nazareno in sé, ma contro il mancato rispetto dei patti del Nazareno, ed è un ruolo, in alcuni giorni è più evidente perché la partita si sta giocando su quel fronte, in altri giorni meno perché perché se in quel giorno e da qui all'elezione del Presidente della Repubblica sarà... Ne vedremo tante. No, però io vorrei capire se voi ci riuscite ad anticipare, viste le vostre letture della politica, quale sarà poi la conclusione di questo percorso. Io sono sempre poco propenso a seguire tutti questi appunto saliscendi, chiacchiericci, umori della politica. Alla fine, tra 15 giorni, 10 giorni, Sallusti, Berlusconi voterà il nome che uscirà dal cilindro di Renzi, secondo te? Beh, insomma, se sarà un nome accettabile, non dico concordato, ma comunque accettabile, e non penso che Renzi sia così ingenuo da proporre un nome inaccettabile a Berlusconi, io immagino di sì. E qual è il nome più accettabile, amato alla fine, per Berlusconi, intendo? Anche sul nome di Amato, il primo a farlo è stato Berlusconi, a farlo all'inverso, dicendo una personalità all'Amato. Ce ne possono essere altri, cioè un presidente che garantisca anche il centrodestra nel suo insieme, a differenza di del ruolo che ha giocato Napolitano, e garantisca anche l'agibilità politica di Berlusconi, che non è un fatto secondario. Eccolo qui, l'agibilità politica di Berlusconi. Velardi, quale sarà questo nome sul quale... Il sì di Berlusconi io penso che sarà un sì secco, e Renzi sarà così saggio da fare il nome giusto, perché altrimenti il giorno dopo, senza il voto di Berlusconi sul Presidente della Repubblica, lui può anche eleggere. Ma qual è questo nome giusto? Allora, per il nome giusto ti indico io un metodo per trovarlo, è una cosa un po' da malati della politica, però sì. Se fai tu questo bel servizio, è un bel servizio pubblico, prendi un foglio Excel, prendi un foglio Excel, sì, cataloga giorno per giorno i nomi fatti sui giornali, sì, va bene? Da adesso fino al 29 di gennaio. Poi li butto. Poi il foglio di Excel lo prendiamo in mano quel giorno, il giorno in cui sarà eletto il presidente. A quel punto verificheremo tutte le sciocchezze dette dai giornali. Lo sai che qualche giorno fa i due maggiori giornali italiani dicevano in contemporanea, uno che Renzi diceva no agli ex segretari e l'altro che avrebbe messo in pista agli ex segretari. Allora facciamo così, prendiamo poi il foglio Excel, l'elezione fatta, a quel punto finalmente sti benedetti giornali li togliamo di mezzo, li chiudiamo, diciamo, li mandiamo al macero. E avremo il Presidente della Repubblica che naturalmente si inventerà il giorno prima. Sì, ho capito, ma chi sarà? Però tanto presumibilmente un notaio o un notabile di serie B. Perché è tornata alla politica, quindi si torna a prima di Cossiga. Hai presente quando i presidenti della Repubblica, i leoni, non contavano politicamente, diciamo. Ma c'è un motivo politico, perché oggi è tornata alla politica dopo 20 anni di crisi lancinante. E quindi non c'è più bisogno di un presidente, questa è una teoria. Sallusti poi è l'identikit del cosiddetto arbitro. Renzi lo chiama così, arbitro, per dire in maniera istituzionale, no? Sì, non dimentichiamo che alla sua prima elezione anche Napolitano aveva i requisiti di cui parlava Velardi, non era di serie B perché aveva un curriculum prestigioso, ma era comunque assolutamente in margine della politica, addirittura se non ricordo male non era neanche stato rieletto deputato, quella figura in partenza è così, poi dopo quando uno si siede sul colle gli cambia la prospettiva e quindi dire, spezzare una lancia a favore dei terribili giornali, come giustamente diceva Velardi, perché i giornali non è che hanno la palla di vetro e ogni giorno sparano un nome a caso. I giornali cosa fanno? Fotografano gli umori di quella giornata, e gli umori non sono univoci, cambiano ogni ora. E gli umori non sono notizie. Velardi, qui l'abbiamo già fatto tante volte. Dovremmo parlare tanto di come anche il giornalismo abbia trattato la politica in questi anni, buttandosi sempre più sui retroscena, sulle cose. Siamo tutti d'accordo. Velardi se la canta, se la suona, sentenzia, e tutti d'accordo. Visto, si stampi per l'appunto e via. No, però io vorrei capire adesso. Nasce, a proposito di umori cangianti, questa linea anche via SMS da noi: Cofferati Presidente della Repubblica. Ma perché Cofferati Presidente della Repubblica? Ma No, vabbè, adesso potrebbe essere, come, perché no? Però io vorrei capire, Sallusti, questa vicenda, voi scrivete oggi il PD minaccia Renzi sul Colle, il titolo di prima pagina, cioè a dire che il PD può usare l'arma Cofferati, però a pagina 2 scrivete che secondo i dati di un sito europeo è un assenteista fannullone all'Europarlamento. Allora, questa vicenda Cofferati, Sallusti, inciderà sul PD oppure tra 10 giorni nessuno ne parlerà? Ma credo che sia uno strumento per tenere alta la tensione dentro quell'area. Non penso che in sé il caso Cofferati sia prioritario all'interno della sinistra. In queste ore, e forse Cofferati apposta lo ha fatto per prestarsi a fare da strumento e quindi guadagnare visibilità, guadagnare ruolo politico. Io sono convinto che se Cofferati porta fino in fondo la sua minaccia di fondare una fondazione che poi probabilmente diventerà un partito, può essere il catalizzatore della frangia che è assolutamente minoritaria all'interno del PD e minoritaria anche dal punto di vista elettorale. Il problema è che dal punto di vista parlamentare in questo momento è in grado di avere qualche numero, magari di avere un ruolo. Non penso che in sé il caso Cofferati sia il problema che in questo momento la sinistra. No, ma credo di no, anche perché farà un partito, non lo so, l'abbiamo sentito poco fa, il momento in cui ha detto esco dal PD, non farò altri partiti, non confluirò in altri partiti. Sta facendo un partito. Ecco, la traduzione simultanea di Claudio Velarde, quindi sta facendo un partito. Ma è evidente, peraltro guarda, fin quando diciamo questa vecchia nomenclatura che non ha più voti, non conta più niente, perché è clamoroso, no? Che quello che aveva fatto la famosa manifestazione di Roma, il Circo Massimo, eccetera, è riuscito a perdere fino anche le primarie del gruppo. Quindi loro non hanno più spazio nella sì, società, ma fin quando invece lo spazio loro ce l'avranno sui media, loro sopravviveranno. E Renzi, attenzione, perché fino a quando questi staranno sulla scena avrà sempre un'assicurazione della vita, perché tutti quanti si rivolgeranno a Renzi dicendo salvaci da Cofferati, da D'Alema, da Cirati, sì, è chiaro. Quindi questa situazione in qualche modo fa bene a tutti. Nel momento in cui usciranno allo scoperto, faranno un partitello, come dice giustamente Sallusti, prenderanno 2 voti, però a quel punto dall'altra parte Renzi avrà anche campo libero, sì, per fare delle politiche. No, devo dire che forse sempre per malati di politica, forse il rischio che corre in questo momento la sinistra col caso Cofferati è se Cofferati, Sel, eccetera, scelgono un candidato alternativo per la regione Liguria, lì potrebbero esserci qualche problema, cioè la sinistra potrebbe rischiare di perdere la regione. Sì, però non possiamo non preoccuparci, no, perché candidano Freccero, quindi diciamo è garantito che di voti ne prendono 30. No. Diciamo. Questo è un nome che circola, Freccero, sul Corriere della Sera, è vero. Io però, siccome dopo la pubblicità, dopo che vi ho salutato, avrò l'onorevole Gianluca Pini per capire la Lega che farà e parleremo anche del caso, l'altro caso, quello molto, molto ancora sui giornali, no? La vicenda di Vanessa e Greta, perché Gianluca Pini è uno che ha twittato: onorevole della Repubblica, le prenderei a calci nel culo appena tornate in Italia, in maniera molto molto pacata. Allora, vorrei su questo tema una cosa flash prima di salutarvi. Sallusti, ma tu il riscatto l'avresti pagato sì o no? Proprio sì o no? Se fossi il padre sì, se fossi lo Stato no. Ma lo Stato vuol dire che lo Stato avrebbe mandato a morte, può essere, due sue concittadine. Ma lo Stato per legge manda a morte un civile qualsiasi rapito da una banda di sequestratori di persone in Italia perché impedisce il pagamento del riscatto, quindi lo Stato già ha deciso di rischiare la vita di chi viene sequestrato. Non capisco perché sul piano internazionale ci si in maniera diversa. Velarde, questa vicenda è chiaro che abbiamo pagato, questo era l'altro classico. Lo Stato paga da anni, cioè semplicemente da rispondere la cosa come dice Pane Bianco stamattina, cioè bisogna devolvere il tema all'Europa. Deve essere l'Europa che si assume la responsabilità di scegliere una linea dura sui sequestri e a quel punto togli i singoli paesi dall'imbarazzo di dover dire di dover pagare dei soldi per rispondere alla propria opinione. Beh, insomma, è un modo per un modo per togliersi la responsabilità di fare questo. Però scelta, per darla all'Europa che cominci così ad avere qualche responsabilità sulle politiche, Lo stesso deve accadere con il terrorismo, anche sperando che oggi i ministri degli esteri prendano una qualche decisione seria, che cioè quella di unificare le forze di intelligence e di polizia. Comunque parleremo di questo. Certo che sarà contento il prossimo inquilino del Quirinale se sarà davvero un notabile, di essere definito da Velardi un notabile di serie B. Pensa nel momento in cui si insedia, dice, ti farà una chiamata Velardi. Io scapperò, magari non in Siria, scapperò altrove in America, paese libero, diciamo. Va bene, allora io ringrazio Claudio Velardi, ringrazio Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Dopo la pubblicità avremo appunto l'onorevole Gianluca Pini della Lega per parlare un po' ancora le polemiche sul riscatto pagato non pagato, ma è chiaro che l'abbiamo pagato, come ho detto varie volte, ed è chiaro e ovvio che queste cose non si debbano ammettere pubblicamente, e ne parliamo con lui, parliamo anche un po' di Quirinale. Gianluca Pini tra poco. 24 mattino. Sono le 8:41 minuti, siamo qui. Allora, dopo aver parlato un po' di Quirinale, ma se volete parliamo anche adesso, ma voglio salutare l'onorevole Gianluca Pini della Lega per parlare soprattutto delle polemiche, buongiorno Pini, e delle polemiche che ancora ci sono sulla questione del riscatto. Le faccio sentire la voce di Vanessa. Vanessa è una di quelle due che è tornata da Siria, sentite ieri che ha detto. Ovvio che abbiamo chiesto scusa e Greta ha usato le parole perfette, ci dispiace per il dolore che abbiamo causato, ma non siamo responsabili del nostro rapimento, siamo stati 5 mesi e mezzo chiusi dentro. Insomma, poche parole. Gianluca Pini, ma lei le ha accolte così su Twitter, più o meno suonava con un le prenderei a calci nel culo quando sono state liberate, addirittura. Penso che sia un sentimento molto diffuso nei cittadini italiani, se, come ho detto e scritto nel tweet, è stato effettivamente pagato il riscatto, ma temo che effettivamente alla fine sia stato pagato. Ma sì, ma io guardi, l'ho già detto, ma è chiaro, vengono pagati i riscatti, come ieri ha detto un ex 007 al Fatto, vengono pagati in tutti i casi, ma è giusto secondo me? Vabbè, follia, tutti i casi internazionali. Internazionali. Adesso io non so chi sia questo 007, che 007 in tutti i casi italiani, in tutti i casi italiani. Allora ci mettiamo fuori da qualsiasi tipo di accordo internazionale, perché non a caso, e questo l'ho fatto rilevare proprio in sede di dibattito alla Camera quando è venuto il ministro Gentiloni, non a caso la notizia è stata data da un quotidiano inglese, cioè da quello stesso paese che non si è piegato ai ricatti dei terroristi e ha accettato, ho torto collo, penso con le budelle nel sacco, che alcuni suoi cittadini fossero sgozzati da queste bestie, da questi animali in diretta televisiva pur di non cedere. Che si tratti in caso di sequestri è assolutamente normale, lecito, ma poi dipende qual è la merce di scambio rispetto alla tutela delle vite umane. Però mi faccia capire. Il 99% dei casi sono negoziazioni date con scambio di prigionieri o aiuti umanitari, non so. Però onorevole Pini, mi faccia capire, per essere chiaro fino in fondo, quindi lei, diciamo, fosse stato al governo, le avrebbe lasciate al loro destino, che probabilmente... Io avrei lasciato che l'intelligence, che aveva immediatamente, i ragazzi dell'intelligence avevano immediatamente, da quello che sono le notizie a nostra disposizione, individuato chi le aveva in mano, chi le teneva sequestrate, e si poteva arrivare serenamente, sempre dalle notizie che sono in nostro possesso, a una negoziazione senza il pagamento di riscatto. E come? Cioè, quelli volevano soldi? Questo non è, no, non volevano soldi, volevano qualcosa in cambio, non necessariamente soldi. Non so, faccia capire. Più semplice per il governo, mettiamola così, probabilmente è stato molto più facile per il governo negoziare con dei soldini piuttosto che andare avanti in una trattativa che poteva essere più difficile, richiedeva più tempo, e magari per il governo Renzi il tempo era un qualcosa di assolutamente necessario per cercare di distrarre l'attenzione su problemi ben diversi. Cioè, cosa potevano volere? Liberazione di persone, in genere si chiede quello. Nel 99% dei casi chiedono liberazione di altre persone. Cioè, che abbiamo dei detenuti siriani che in Italia che volevano essere rilasciati? No, ma magari non ce li abbiamo in Italia, voglio dire, noi siamo presenti in tantissimi scenari di guerra o di post-guerra, quindi se si chiama intelligence o servizi segreti è proprio perché ci sono delle notizie che è bene che rimangano segrete. Però diciamo, lei ha detto bisogna pagare è sbagliato, perché si finanziano anche nuove azioni, no, è un possibile madornale. Azioni terroristiche. È un errore madornale. Però, se io fossi in Renzi in questo momento starei molto attento alla reazione da parte inglese e da parte americana, perché ha rotto di fatto un patto. Beh, anche se ufficialmente non abbiamo dichiarato di aver pagato nulla. Lasciamolo ufficialmente e andiamo sull'analisi, diciamo sul terreno dell'analisi geopolitica. Sicuramente ci sono irrigiditi dei rapporti con degli alleati per una scelta assolutamente improvvida da parte del governo italiano. Mettiamola così. Poi dopo. Però lei ha citato il caso inglese. Lei ha citato il caso inglese. Gli inglesi, come anche gli americani, non trattano a rischio di. Non pagano. E purtroppo questo al costo di pagare con la vita di alcuni loro concittadini. Cioè, secondo lei ci doveva arrivare anche a questo, a questo eventuale rischio, cioè di correre la vita, di far correre il rischio di perdere la vita a queste due ragazze? Guardi, nel momento in cui ci si intesta un rischio del genere, come hanno fatto queste due ragazze, in maniera assolutamente squinternata, cioè di andare in un paese dove si sa che c'è una guerra civile in corso, anzi diciamo che c'è stata un'evoluzione rispetto al concetto di guerra civile lì, non si avvisa nessuno, non si fa in modo di far perdere le proprie tracce, ci si assume il rischio anche di rimanere uccisi, quindi bisogna essere assolutamente, non dico cinici, ma pragmatici in queste situazioni qui. Beh, insomma, pragmatico e cinico un po' lo è. Comunque, insomma, lei le accoglierebbe così, a calci nel culo. Questo è il dato di fatto. Dai, cioè, hanno messo in difficoltà un intero paese, probabilmente hanno fatto spendere milioni di euro a un paese per una liberazione che poteva essere fatta in un'altra maniera, ripeto. Hanno messo sicuramente in difficoltà e a rischio tutta una serie di persone legate ai servizi nostri che sul terreno probabilmente hanno trovato rischi enormi nel cercare anche solo di negoziare. Diciamo che sono due pedate nel sedere, due sberle sicuramente se le meritano. Va bene, mi dica il suo nome per il Quirinale, che ogni giorno noi chiediamo qui agli esponenti politici. La linea che dovrebbe tenere la Lega secondo lei per l'elezione del Quirinale? La linea che tiene la Lega lo decide Matteo. Vabbè, ho capito, ci sarà qualcosa che filtra, no? Il dibattito, cioè, voi avete un nome, farete un nome, no? Lo farà Salvini. Solo che c'è un dibattito interno, sono state fatte alcune valutazioni. Quello che le posso dire è che difficilmente potrà essere un nome che non regge rispetto all'impatto del controllo dei conti nel marzo di quest'anno, quando la Commissione europea, che ci ha graziato perché c'era la presidenza, maestro di presidenza di Renzi, sì, ci boccerà. Ha fatto finta di non vedere il disastro dei conti pubblici, però dicendo torniamo a marzo. Siccome Renzi non ha più eccessivamente, ma adesso proprio non ha più la statura e le spalle larghe per reggere l'impatto della drammatica valutazione che arriverà dall'Europa sui conti pubblici, se non c'è un Presidente della Repubblica che ha queste spalle larghe, questa credibilità, probabilmente il rischio del colpo è dietro l'angolo. Quindi la scelta sarà più di natura europeista, economica, diciamo così. Europeista ed economica. Draghi, Padoan, questi qui, diciamo. Padoan non mi sembra che abbia le spalle molto larghe, perché è complice insieme a Renzi di aver peggiorato, se ormai era possibile, la salute dei conti. Draghi un po' sì, Draghi è abbastanza larghe, insomma. Quelli defilati ce la fanno, questi defilati in maniera furba, intelligente, perché i defilati pasticcioni come Prodi mi sa che non ce la fanno. Vabbè, mi dica quale sarebbe per lei il peggiore da vedere al Quirinale. Amato. Peggiore da vedere al Quirinale. Proprio il segno sarebbe come altro che una pedata nel sedere agli italiani, sarebbe una fucilata in pieno petto alle persone che lavorano, alle persone che comunque tengono dure e continuano a credere che si possa migliorare. Questo Amato, va bene, la ringrazio Gianluca Pini, grazie per essere stato con noi, onorevole della Lega, il traffico. 24 allora, mattino. Se sono brevi, in 20 secondi do due ascoltatori. Anna da Roma, buongiorno Anna. Buongiorno a lei, come sta? Bene, bene, lei? Bene, grazie. Io vorrei dire che sono d'accordo col signore per quelle due ragazze. Io avrei pagato 1.000 euro, non di più, perché se le tenessero. Addirittura. Comunque, mi piacerebbe. Mamma mia, qualcuno... Anna, ma lei è madre, scusi se mi intro. Sì, sì, sì. E se fosse stata una sua figlia? Sì, una mia figlia, io gli avrei detto prima che, come gli ha detto il padre, non andare. È una cosa da... E però è maggiorenne. Esatto. E quindi si arrangia. Non mi venire a dire madre e figlia, dopo sei una cretina. Sei una cretina. Là, e ti è piaciuto, ti seguita a piacere, e poi se no, ora sono tornate, ci vorrebbe qualcuno che li facesse fare 10 anni di servizi sociali. Grazie. Gratis, ovviamente, scalando lo stipendio. Grazie Anna. Santo da Como, buongiorno. Buongiorno a voi. Io dico in breve, è stata una cosa molto giusta, perché che cosa? Di pagare il riscatto. Se l'abbiamo pagato, ma l'abbiamo pagato. No, perché evidentemente uno ci deve essere in mezzo a queste cose, perché se non ci capiti non ci puoi credere. Per me è stato giusto. E poi va trattata a livello europeo, tutti quanti, i capi di Stato degli esteri, questa cosa qui, e fare una legge comune per tutti. Quello è quello che chiede oggi Angelo Palebianco, cioè si occupi l'Europa di questa vicenda che è sovranazionale. Vi ringrazio, siete stati brevissimi. Allora. Ciao Italia! Ciao! Siete pronti? Ciao Italia! Come voi sapete, ogni giorno invitiamo uno dei nostri ascoltatori che ci segue dall'estero. Oggi andiamo a scovare il nostro amico Damiano. Damiano, buongiorno. Buongiorno Alessandro. Dove stai tu? Allora, io mi trovo a Bruxelles. Ah, nel cuore dell'Europa. Nel cuore dell'Europa, esatto. Sono un musicista. Ah, un musicista, è fantastico. E nella fattispecie vuol dire essere un po' arrangiatore, un po' chitarrista, un po' compositore. Perché hai scelto Bruxelles? Che succede lì a Bruxelles? Allora, questo sembrerà un po' strano rispetto alla storia di molti altri miei coetanei, molti miei colleghi, ma in realtà sono partito per amore. Sento un forte ritorno. Noi sentiamo bene, cerca di concentrarti. Okay. Per amore sei partito. Ok, sono partito per amore, sì. Per raggiungere praticamente la ragazza che poi sarebbe diventata mia moglie. Ah. E quindi diciamo che il mio trampolino, proprio da un punto di vista logistico, è stato l'amore. Beh, vabbè, almeno non di quelle storie d'amore che poi naufragano quando si va all'estero. No, invece è andata a buon fine. Questa l'ultima, che pensi? Già la prossima. Questa è andata a buon fine. L'ultima, è l'ultima. Basta, hai chiuso. Vabbè, Damiano, e fai il musicista? Che vuol dire a Bruxelles? Si campa facendo il musicista? Sì, si campa. Nessuno ti regala niente, ti devi difendere veramente con le unghie, però qui si ha la percezione di poterlo fare davvero. Ma musicista in che senso? Cioè suoni nei locali invece piuttosto? Suono nei locali, scrivo arrangiamenti per orchestre, sono un insegnante. Quindi se dovessi tracciare un bilancio di questa esperienza, direi che per quanto riguarda i pro, la cosa davvero molto positiva è quella che qua si può fare questo mestiere, perché ci sono delle agevolazioni fiscali, esistono delle partite IVA facilitate, c'è proprio una considerazione diversa del ruolo del musicista. Ho collaborato per esempio con un cantautore bolognese che si chiama Manuel Marchetti, che ha partecipato a The Voice Belgio. Insomma, c'è una vita musicale molto fervente. Molto attiva. E invece in Italia tu di dove sei? Sono di Roma. Di Roma. A Roma invece? Avevo comunque un mio giro, i miei contatti, i miei gruppi, però ho scelto di partire per amore. Quindi... È chiaro, infatti tra i pro non hai messo primo il matrimonio, tua moglie sicuramente. Quello non fa parte del lavoro, quello fa parte della mia vicenda personale. È chiaro. Senti un po'. Per quanto riguarda i contro, potrei dire che ho riscontrato che c'è una fortissima incompatibilità, per esempio, tra i titoli di studio, tra i programmi stessi di studio. Sì. Quindi un'Europa dal punto di vista culturale ancora non è unita. Non è unita. Come ci segui, Damiano? Via internet? Via online, sì. Online, sì. Online. Sei della Roma o della Lazio? Sono della Roma, ma non sono un grande tifoso. Vabbè, io speravo però che quest'anno vinceste lo scudetto, ma mi sa che dobbiamo rassegnarci all'ennesima vittoria dei Gobbi. Lo sai? Lo sai anche lì a Bruxelles? Non ho capito. Dobbiamo rassegnarci all'ennesima vittoria dei Gobbi, della Juve. Ok. È già rassegnato. Va bene, a domani mattina 6:30, noi siamo qui.